Radio 24 Reportage. Conversazione con Mario Maffi di Gigi Donelli. Rick Santorum, Michelle Bachmann, and Newt Gingrich, Mitt Romney, and Ron Paul, Tim Pawlenty, and Herman Cain. To seek the office of the presidency of the United States today. Barack Obama è nuovamente presidente degli Stati Uniti, ma noi cosa sappiamo realmente di questa nazione mondo, come già è stata definita? Proviamo ad approfondire con l'aiuto di Mario Maffi, autore, tra l'altro, di Americana, storia e culture degli Stati Uniti dalla A alla Z, partendo da Obama, che in questo libro non c'è. Lei prima citava appunto il discorso di Obama, tutti i discorsi presidenziali sono una sequenza di luoghi comuni. Che cosa sta dietro a questi luoghi comuni, queste icone, queste immagini a buon mercato molto spesso? Ed è venuto fuori un libro di 670 pagine. In realtà abbiamo ottenuto fuori parecchie cose. Abbiamo lasciato fuori naturalmente un'enormità di altre possibili voci. Dicevo, non c'è Obama, ma c'è Barbie, per intenderci. Perché si procede in questo modo? Perché probabilmente, da un lato, noi abbiamo fissato un limite temporale, no? Che era grosso modo la metà degli anni 70. Perché? Perché secondo noi l'essere troppo immersi nella contemporaneità fa perdere anche un po' di vista le distanze, gli spessori. Dall'altro perché forse abbiamo privilegiato più certe dimensioni collettive che non individuali, personali, private o politiche private, ma individuali. Per cui Barbie, per esempio, ci è sembrato un elemento molto più di fascinazione collettiva per un lungo periodo e che continua a essere, volenti o nolenti, un elemento di fascinazione collettiva. Ecco, no? Da Barbie naturalmente anche a momenti drammatici della storia, termini come Waco, come Columbine. Noi abbiamo, io lo dico nell'introduzione, insomma, la cultura americana, la storia americana, come tutte le storie di qualunque paese, è una storia contraddittoria, piena di contraddizioni, di spaccature, non è mai un tutto unico, uniforme. Noi siamo entrati in queste spaccature, per cui ci sono per esempio le guerre indiane, ci sono le rivolte degli schiavi, ci sono i grandi scioperi, ci sono le repressioni violentissime dei grandi scioperi, quindi ci sono appunto i fatti clamorosi come Waco, come Columbine, cioè queste stragi che sembrano del tutto e che sono del tutto incomprensibili forse, ma di cui abbiamo cercato di costruire un'identità, se possiamo dire così, no? Capire il perché di questi episodi che si rinnovano continuamente, no? Purtroppo c'è questa coazione a ripetere. È interessante, infatti, questo aspetto tra il conoscere e non conoscere l'America, cioè da una parte l'abbiamo visto appunto pochi giorni fa, le elezioni globali, l'interesse del mondo e sicuramente dei noi italiani per la scelta del 45esimo presidente, nello stesso tempo una distanza enorme. Comprensione anche molto spesso dei meccanismi che stanno dietro tutti questi enormi fenomeni, no? Per cui noi abbiamo ritenuto opportuno proprio scavare nel passato della storia della cultura americana per cercare di trovare le radici di tanti di queste, come dicevo prima, icone o di questi momenti celebrativi che rischiano di far non comprendere che cosa ci sta dietro, no? Quindi anche la scelta di organizzare il lavoro per voci, appunto, come se fosse un dizionario, risponde a questa esigenza di isolare certi fenomeni, certi episodi, certe situazioni, eccetera, e di andare in profondità. Storie e culture degli Stati Uniti dalla A alla Z, e come ha detto appunto un momento fa Mario Maffi, sono oltre 300 voci. Per darvi un po' il senso, tra le primissime troviamo Alien. Certo, ed è proprio un termine significativo, perché appunto, come diceva lei, Alien evoca il film. Ma Alien è un termine che viene declinato poi in tanti modi diversi. Alien sta a indicare lo straniero, ma con un'accezione anche di intruso, no? Colui che si inserisce clandestinamente dentro la società americana E anche qui abbiamo tutta una gamma di immagini, no? Appunto dai film di fantascienza o da quei film inquietanti come l'invasione degli ultracorpi o altre cose di questo tipo, all'uso più contemporaneo, per cui gli alien sono gli immigrati clandestini, poi sostanzialmente, o coloro che non corrispondono al modello WASP, no? White Anglo-Saxon Protestant originario. Un modello peraltro messo più che mai in crisi da una parte gli alien che si rivolgono in maniera esplicita proprio al presidente Obama perché, come dire, agisca nei loro confronti, dall'altra parte abbiamo visto, e queste sono state anche le elezioni in cui il modello WASP è stato più che mai, come dire, non tanto dalle elezioni ma dalla demografia, viene messo in crisi le proiezioni di un'America che cambia, di un'America che è cantiere veramente. Anche su questo io starei molto attento, perché io ricordo quella famosa frase, no? Che tutto cambi perché nulla cambi. Bisogna stare molto attenti a questo. Questo è un altro degli aspetti della cultura americana che andrebbe un po' esplorato più in profondità. Quanto queste immagini, no? La frontiera, l'ultima frontiera, eccetera, eccetera, poi nascondano nella realtà significati molto diversi. Certo, la società americana è una società che continua a cambiare, ma questo è vero anche per la nostra società italiana piuttosto che quella francese, inglese, eccetera, eccetera. Non è che sia una peculiarità americana. Ecco, lei non vede una peculiarità americana, ecco, in questo. Difatti, stavo per dire, e qui bisogna stare attenti di nuovo, perché c'è tutto un filone dell'ideologia americana, della cultura americana, fondato sull'eccezionalismo. Cioè la storia degli Stati Uniti è una storia eccezionale, sarebbe una storia eccezionale, e questo appunto si traduce in tutta una serie di ricadute politico-culturali, sociali, di costume, che sono estremamente così inquietanti spesso, no? Perché l'eccezionalismo vuol dire anche in un certo senso il porsi come modello. Non a caso la prima immagine dei padri pellegrini che arrivano negli Stati Uniti è quella di costruire la città sulla collina, no? Che tutti vedono. Questo è l'eccezionalismo, e questo è un po' il tranello in cui si cade quando si guarda l'America come una storia a sé stante, in un certo senso, no? Che, una storia speciale. Sì, speciale, esattamente. Il giorno precedente, cioè l'ultimo giorno di campagna elettorale, il presidente Obama, diciamo, l'ha trascorso in buona parte con quello che avete sentito, insomma, che tutti conoscono, un vero e proprio idolo, un'icona della cultura pop americana, che a proposito di rappresentazioni evoca una classe operaia al lavoro intorno alle macchine, evoca appunto un'America che evidentemente c'è, ma che fa parte anche dell'icona stessa. Professor Maffi, lei ha lavorato anche recentemente su uno specifico che era quello degli scritti di John Reed, il suo lavoro si chiama Red America, lotta di classe negli Stati Uniti. Questo tema ha ancora un'attualità nell'America di oggi? Secondo me ce l'ha profondamente, e questa è un'altra storia che rischia sempre di essere sconosciuta, cioè la storia della classe operaia americana. Si guarda l'America come a un luogo che o non ha classi, e questa è una grossa mistificazione, oppure in cui la classe operaia è totalmente integrata, soggettata ai miti del progresso, del benessere, eccetera, eccetera. Dietro a queste immagini distorte poi c'è una realtà che è una realtà estremamente combattiva e fatta anche di grandi lotte, di grandi drammi, come testimonia questa raccolta di scritti di John Reed, che ricordiamo noi conosciamo soprattutto per il reportage sulla rivoluzione d'ottobre in Russia, ma che fu un giornalista militante e poi anche uno dei primi fondatori del movimento comunista negli Stati Uniti. Tanto è vero che molti degli episodi narrati da Reed poi conosceranno drammaticamente una ripetizione nei decenni successivi. Ancora relativamente in tempi recenti, Harlan County, questa contea platea di miniere di carbone soprattutto è stata al centro di grandissime lotte operaie con scontri anche molto violenti con le forze dell'ordine, eccetera. Quindi è una storia che si conosce molto poco e che invece nella descrizione di John Reed risalta in tutta la sua vivacità, in tutta la sua drammatica vivezza, insomma. Insomma, l'America forse la conosciamo anche, ma di sicuro c'è sempre molto da apprendere. Un contributo, dunque, grazie a Mario Maffi con Americana, lo ricordo, Storie e Culture degli Stati Uniti dalla A alla Z, edito dal Saggiatore, costa 29 euro. Buona lettura e l'appuntamento è alla prossima settimana. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.